Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, i fatti, i personaggi, le storie grandi e piccole della cronaca che ci parla di noi. Questa è l'Italia in controluce che ogni giorno vi raccontiamo. Oggi non possiamo che essere a Bologna. Dopo le annunciate dimissioni del sindaco Flavio Del Bono, indagato per peculato, abuso d'ufficio e truffa aggravata, molti si domandano se sia davvero finita la diversità di Bologna, quel marchio di città speciale per la qualità della sua amministrazione che per anni è stata un esempio al resto d'Italia. Non resta che sentire le voci dei bolognesi, una nostra selezione che non può e non vuole essere rappresentativa. Emilio Buttalo. Del Bono, sindaco di Bologna, si è dimesso. Qual è il suo pensiero? Lascio la decisione alla sua coscienza. Certo, per la Bologna è una brutta figura a livello italiano. Ma il mio pensiero, non sono colpevolista di natura, sono un innocentista, cioè ha sbagliato come sbagliamo tutti. No, non me l'aspettavo, perché una piazza così, una regione così, diciamo, di sinistra, poi la sinistra dovrebbe essere più pulita di altre, perché vedo che anche altri sono inquisiti, altre cose. Ha fatto bene. Invece di far tanto lo spiritoso, ha fatto bene a dimettersi, perché come tutti gli altri, predicano, però poi sono come tutti gli altri, quindi gli sta bene anche a loro qualcosa del genere. Ma se l'aspettava lei queste dimissioni? No, perché era un po' impunito, voleva rimanere lì per forza, però non so niente, oggi non ho sentito niente. Mi dispiace tantissimo, perché era una persona straordinaria, che avevamo delle grosse aspettative, e veramente mi dispiace che si è dimesso. Spero che la persona che verrà dopo di lui sia altrettanto in grado e capacità dello stesso di Flavio Del Bono. Non lo so, qui obiettivamente non si capisce quali degli schieramenti siano più a favore o contro di queste cose, ma ormai è tutto fatto così, quindi se così doveva essere è meglio che sia dimesso, perché un'amministrazione di questo genere non porta sicuramente a nulla. Se lui si è dedicato più alla sua vita personale che non a quella cittadina, è una cosa che doveva accadere. Sicuramente ci sarà un po' di autogestione nel breve periodo, però spero che questo porti ad avere un sindaco, insomma, un po' più fermo. Tutto qua. Penso che purtroppo la politica in questo momento, sia del governo che dell'opposizione, che adesso non è quella dei padri fondatori della Repubblica. Andrea De Maria, segretario provinciale del Partito Democratico, come commenta queste dimissioni del sindaco di Bologna, Del Bono? Ma io credo siano un atto di serietà e di responsabilità. Del Bono ha dimostrato che mette avanti, rispetto alla sua persona, l'interesse generale della città e la funzione alta che ricopre. È una prova di stile che sta dando un dirigente del Partito Democratico. Devo dire che i nostri avversari politici in genere non si comportano così, per questo ho trovato anche sgradevoli certe polemiche che ho sentito qui in Consiglio Comunale, che vengono appunto da una parte politica che in genere si comporta in modo assolutamente opposto. Italia in controluce. Qualcuno vede nella crisi bolognese, nel recente voto, alle primarie pugliesi due facce di una stessa medaglia, le difficoltà del Partito Democratico. Ma che cosa insegna la vittoria di Nichi Vendola? Il presidente della regione ha battuto nettamente il candidato scelto dal partito, Francesco Boccia. Oltre 200.000 elettori del centrosinistra si sono espressi in netta maggioranza per lui. Anche in questo caso diamo voce alle persone, ai pugliesi. Vincenzo Rutigliano. C'è da immaginare che le indicazioni dei vertici del partito molto spesso finalmente non sono osservate dagli elettori. Ma sottolineare da chi non considera le cose nella concretezza. Chi considera le cose nella concretezza non è per niente sottovalutato. Questo risultato avvicina anche il risultato positivo e quindi segna l'avvicinamento anche alla vittoria alle regionali di marzo per il centro-sinistra? Certamente una percentuale di vittoria ce l'hanno sempre chi si candida. Oggi con il terzo polo questa percentuale è aumentata notevolmente. E la politica deve capire che la gente vuole alcune cose. Non mi aspettavo tanta partecipazione, ma di solito ormai quando la gente viene chiamata ad esprimersi con questo sistema sta rispondendo sempre di più. Ma ritengo che alcuni dirigenti anche regionali hanno dato una facciata ufficiale di appoggio a Boccia, ma sostanzialmente anche loro non credevano in questa candidatura, perché oltre al sogno che noi avevamo di una vittoria di Vendola, poi comunque i dati portano anche in alcuni comuni, vedi Gallipoli, vedi altri comuni della provincia, che molti dei dirigenti locali hanno remato contro. E lì per la stessa città di D'Alema, che super Fasano tiratore, anche lì vendo la stravinto. Certo, questa è una dimostrazione che molto probabilmente le indicazioni non sono state quelle di un diktat, ma sostanzialmente poi, dato che si votava comunque all'interno di un'area di sinistra, è venuto fuori il cuore della sinistra. Italia in controluce. In questi giorni di Milano si parla per lo smog risalito oltre le soglie tollerabili, basta guardare dalla finestra per accorgersene. Vedremo che cosa ci proporrà la cronaca cittadina. Sullo sfondo intanto resta il grande evento che sarà dedicato proprio all'alimentazione e all'ambiente, Milano 2015. Mancano meno di 5 anni all'Expo, ma i lavori avanzano e qual è la visione della città per il futuro? Dopo le polemiche sulla sede troppo cara e sui compensi dei manager, doppio quello del numero uno Stanca, qual è l'anima del progetto? Dario Ceccarelli ci guida in un viaggio nell'organizzazione di questo mega evento che porterà su Milano parecchi soldi. Grazie Letizia, perché ha incarnato al meglio Milano e la Lombardia. Milano e la Lombardia sono queste, capaci di lavorare, di lottare, di vincere. Che bel giorno quel 31 marzo del 2008, davanti a una folla da stadio si festeggia la vittoria, l'Expo va a Milano che straccia la concorrenza di Smirne. Una volta tanto siamo compatti, Prodi, Moratti, Formigoni, con Milano decisa a lanciarsi nel futuro per cancellare le ferite di Tangentopoli. Eppure in pochi mesi lo slancio si esaurisce, l'arrivo di Berlusconi a Palazzo Chigi dovrebbe favorire l'Expo milanese. Invece tra il governo centrale che si inserisce nella partita e la Moratti si apre un braccio di ferro che provoca solo ritardo. E anche il primo birillo che salta, quel Paolo Glisenti, fortissimamente voluto dalla Moratti come braccio destro, ma poi sacrificato per il più governativo Lucio Stanca. E così, tra il flop di Malpensa e plastici che non diventano realtà, Milano va verso l'Expo con una paura, quella di perdere l'ennesima occasione dopo anni di mediocre tran-tran, nascosti come polvere dai fastosi tappeti della Scala e degli stilisti. L'architetto e scrittore Gianni Biondillo. E penso che Tangentopoli ormai quasi 20 anni fa, e questo non è affatto una buona notizia. Il fatto che Milano faccia fatica a rimettere in movimento il suo corpo pachidermico dà la sensazione di un'intera nazione che fa fatica a rimettersi in movimento. L'Expo dovrebbe essere una grande occasione per questa città per prendere l'ultimo vagone del treno che è partito, però muoviamoci, perché il 2015 non è fra 15 anni, è fra 5 anni e io non vedo nulla. È vero che è stato detto, è stato fatto, è stato scritto, è stato pubblicato, ma nei fatti oggettivamente il progetto, il master plan, per dire, tutte le cose che erano state presentate al BIE, tutte i rendering, i progetti, le torri, i corsi, i raggi verdi, i nuovi navigli, tutte quelle cose lì non si sono fatte e si sa che non si faranno. Più ottimista è l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli. Secondo me la città è in grado di farlo. La cosa che secondo me andrebbe più curata è una informazione nei confronti dei cittadini, perché pochi sanno, se non genericamente, che cosa sarà l'Expo, e qualcuno ne ha viste di Expo naturalmente fuori Milano, ma sono pochi quelli che ne hanno una coscienza precisa. Quindi l'informazione sarebbe utile per far capire che cosa si fa per la città e diciamo che cosa si fa per il mondo anche, perché poi l'Expo è una finestra sul mondo. Già, una finestra sul mondo che anche come architettura ruota attorno al tema del cibo e dello sviluppo sostenibile. L'architetto Stefano Boeri. Noi dobbiamo oggi inventarci un nuovo modo di chiamare il mondo a raccolta. Questo nuovo modo è offrire a visitatori che arriveranno dal Sud America, dalla Cina, un'esperienza inedita come quella di trovarsi in mezzo a un grande territorio agricolo dove i paesi di tutto il mondo coltivano, producono tecnologia, ricerca, mostrano le loro capacità di trasformazione del cibo, le biodiversità delle diverse culture. Un progetto affascinante, ma intanto la città, soffocata dalle polveri sottili, non decolla. Roberto Mazzotta, ex presidente della Banca Popolare, la vede comunque come un'opportunità. Perché fissa una data e consente che le energie si possano raccordare e galvanizzare per raggiungere degli obiettivi di sviluppo e di apertura. Ma resta un problema. Giornalista Marco Alfieri, autore della Peste di Milano. Una città che io trovo abbastanza, come dire, ammaccata dal punto di vista delle sue classi dirigenti e credo che questo sia il punto da cui partire per costruire un futuro migliore per questa città e che appunto secondo me è carente nelle sue classi dirigenti. Riguardo alle ferite di Tangentopoli, Mazzotta intravede una lenta guarigione. Non si può pensare che un tessuto sociale, dopo 30 anni di tempeste di questo genere, di malessere di questo genere, non sia stato provato e non sia stato lacerato. Però a mio avviso è acqua passata. E oggi Milano ha la necessità di riunire le energie e probabilmente deve fare uno sforzo e ricostruire un po' un establishment che nelle fasi delle grandi turbative è stato disintegrato o perlomeno fortemente compromesso. Sapessi com'è strano a Milano. All'opera allora, ma il tempo stringe. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci risentiamo alla prossima edizione domattina alle 6:30. Buona giornata da Alessio Maurizi.